La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto a tutti gli amici in ascolto, Radio 24, La Rosa Purpurea, l'ora di cinema, come sempre il sabato a quest'ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è dalle nostre frequenze, con interviste, ne avremo almeno un paio importanti in questa nostra trasmissione, con i giochi come sempre, con il nostro DVD game per farvi vincere DVD, film in DVD e in Blu-ray, i film della stagione, e poi la nostra pagina Facebook che non vi molla mai per tutta la settimana, La Rosa Purpurea @ Radio 24 su Facebook, ed è anche il nostro indirizzo di posta elettronica per poi provare a giocare con noi. Dicevo, settimana molto molto densa in termini numerici, non si può dire forse proprio altrettanto per la qualità o per così l'appetibilità, l'appeal di alcuni di questi film, e noi proprio per questo motivo ovviamente abbiamo fatto una serie di scelte, però davvero 15 film in una settimana sono troppi, cioè sono proprio troppi, impediscono qualsiasi tipo di scelta. Noi proviamo a farle, proviamo a darvi alcuni titoli, qualcosa rimarrà fuori e chiaramente potete sempre recuperarlo voi. Cominciamo con un film che si intitola Mistress America, è una screwball comedy, come si suol dire, un film che in cui echeggiano un po' alcune atmosfere alleniane, storia di compagne di università nella Manhattan contemporanea. Ciao, sono Tracy Fisco. Mia madre sta per sposare tuo padre. Senti, hai mangiato? Vuoi uscire? Bene, sai dov'è Times Square? Viveva esattamente come una giovane donna dovrebbe vivere per godersi la giovinezza a pieno. Le persone mi rubano sempre le cose. La mia ex amica e nemesi Mamie Claire mi ha rubato idee e pure fidanzato. Devi riuscire a trovare questa Mamie Claire. Quelli sono i miei cazzo di gatti. E insomma, dicevo, atmosfere alleniane, anche se non sempre, anzi direi quasi mai, all'altezza del capostipite, però facce che si ricordano, come quella di Greta Gerwig, per esempio, la classica storia di iniziazione, di uscita dalla linea d'ombra, di un modello da seguire, in questo caso appunto l'amica più sgamata, come dicono i giovani, rispetto a una vita adolescenziale che fin lì è stata praticamente normale, ma che potrebbe preludere a una vita diversa. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris, ti è piaciuto questo Mistress America? Ma io devo essere sincero, quando vedo Noah Baumbach non so mai se mi è piaciuto veramente il film o se mi ha abilmente rubato il portafoglio dalla tasca. Lo dico nel senso che Noah Baumbach è un abilissimo narratore, ha la capacità che hanno pochissimi di entrare dentro una storia di cui non dovrebbe interessarti veramente nulla, portartici dentro, provare una sottile irritazione per quasi tutti i personaggi e alla fine però entrare in empatia con loro, e questo è sicuramente un talento. Il problema però dei film di Baumbach è che hai sempre l'impressione che sia una sorta di excusatio non petita, cioè lui racconta spesso la sua generazione, racconta spesso la sua classe sociale, vive nel dubbio che entrambi siano inutili e sostanzialmente ci dimostra per tutto il film che effettivamente sono inutili ma che sono comunque molto simpatici. E questo sta diventando tra l'altro tutto realizzato in Greta Gerwig, che è una musa di questo modo di raccontare il cinema. Ci si diverte perché c'è anche molta autoironia, c'è una visione molto interessante, c'è la voglia di confrontarsi anche con un'altra generazione, come succedeva nel film precedente con i millennials, però il problema è che all'inizio come alla fine non ti abbandona quel dubbio: A, che cosa ho visto, e B, soprattutto perché l'ho visto, e C, Greta Gerwig è un'attrice straordinaria oppure è il più grande bluff degli ultimi anni? Questa forse è la grandezza di Baumbach, che non ci fa sostanzialmente capire nulla. Assolutamente condivisibile direi il tuo parere. Ecco, una cosa che mi è piaciuta, Boris, tanto tanto, è il personaggio di Greta Gerwig. Non è facile negli ultimi anni trovare personaggi davvero originali e che ti lascino anche il senso di avere capito e carpito qualcosa della società contemporanea. Ecco, questo personaggio così sospeso, così forte, dinamica, tanto da essere un modello per la sorellastra un po' più imbranata che arriva a New York, ma così anche fragile e conscia delle proprie fragilità, l'ho trovato un personaggio disegnato veramente al millimetro. Sono d'accordissimo, e da lì nasce il dubbio: è bello il personaggio o è straordinariamente brava Greta Gerwig, oppure sono bravi Noah Baumbach a raccontarli? Cioè quella sottile incapacità di vivere è tutto nel personaggio di Greta Gerwig, che secondo me esattamente rappresenta tutti i difetti e tutti i pregi, non so se del cinema o proprio di una società o di una generazione, però lei, devo dire, questa indefinitezza sa raccontarla benissimo, non è neanche la prima volta. Probabilmente perché la sente anche abbastanza dentro. E allora, questo è Mistress America, il film con il quale abbiamo voluto aprire la nostra rosa purpurea di questa settimana. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco sarà con noi invece Luca Lucini per parlare della proposta italiana forse più importante di questa settimana, una commedia abbastanza sorprendente che si intitola Nemiche per la pelle. La rosa purpurea. Vi ho convocate entrambe perché la questione riguarda tutte e due voi. Allora, lo ribadisco, io e questa non abbiamo nulla che ci unisce. Paolo. Paolo Junior. Ecco perché andava sempre in cima. Papà non ti parlava mai di me. Solo di quell'altra. Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Paolino, Ma guarda, il ragazzino con me sta una favola. Sì. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. No. Altro che gallette di riso e Oliver Spiga, là. E allora avete sentito la clip di Nemiche per la pelle, ve l'avevamo annunciato, il film con cui apriamo la seconda parte del nostro programma e con cui ospitiamo qui con noi il regista Luca Lucini. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea per parlarci di Nemiche per la pelle, il tuo nuovo film nei cinema italiani con Margherita Bue e Claudia Gerini, mattatrici insomma sulla scena, con tanti attori importanti come Paolo Calabresi per esempio, che ha un ruolo straordinario, come Giampaolo Morelli, con questo bambino piccolo che è molto molto divertente, ed è una commedia femminile ma bella cattivella, e questa è la cosa che ci è piaciuta molto, nella quale funziona molto quell'alchimia fra queste due attrici così come dire particolari, così fammi dire categorizzabili del nostro cinema, la Margherita Bue, l'eterna indecisa, l'icona di un certo tipo di personaggio, la Gerini che è sempre stata la vampona, diciamo così, del nostro cinema, e che invece sono, e lo sappiamo, attrici che hanno tante carte da giocare, e lo fanno molto bene in questo film, che racconta una storia che ha un pretesto molto divertente. Insomma, queste due donne condividono un amore, una l'ha condiviso nel passato, una nel presente, questo amore che è un uomo maturo di cui si tesseranno le lodi durante il film, e questo succede tutto all'inizio del film, non spoileriamo niente, scompare, e le due si devono per forza mettere d'accordo a partire da un bambino che avete sentito si trovano lì e che non sapevano fosse stato adottato dal loro amato defunto. Qualcosa, Luca, per raccontare uno scontro fra due mondi, fra un mondo che potremmo definire un mondo radical chic di sinistra bio, per intenderci, e un altro invece che è l'affarista, la Gerini, l'affarista convinta che guarda solo fisso il centro della sigla del dollaro o dell'euro, però che forse hanno bisogno l'una dell'altra veramente come il pane. Ma questa è, secondo me, una bellissima intuizione di Margherita, che in realtà ha scritto il soggetto, poi ci ha lavorato con Doriana Leondef e Francesca Manieri, e si è resa conto Margherita che le donne hanno in realtà spesso la necessità di crearsi una maschera, e questi due personaggi hanno proprio una maschera che abbiamo quasi stereotipato, volutamente enfatizzato, che alla fine rivela una loro fragilità che è molto comune, cioè queste due donne hanno rinunciato alla loro maternità, chi per la carriera, chi per l'insicurezza, e ovviamente si sono automascherate. Nel momento in cui si trovano a contatto con una maternità non voluta, anzi quasi rifiutata, però si devono trovare a contatto con un bambino da tirare su, questo loro lato ovviamente cambia e insomma si avvicinano per certi versi. Senti, la cosa bella è anche che, come hai detto tu, avete lavorato e enfatizzato gli aspetti più di maschera, più stereotipati di questi due personaggi, però le due attrici poi nel corso del film lavorano molto di sfaccettatura. Questa era proprio infatti la mia sfida, che ho chiesto a loro ed ero sicuro, e adesso, vedendo il risultato, anche le reazioni in sala, sono molto contento di aver avuto, fra virgolette, il coraggio assieme a loro di farlo. Io ero convinto che anche andando sopra le righe con due personaggi scritti molto bene e con due attrici di quel livello non saremmo mai arrivati alla macchietta fastidiosa. In realtà il fatto che sia una commedia così al femminile e due personaggi così di commedia ma interpretati da due donne a mio avviso ha dato anche una tridimensionalità diversa rispetto alle commedie in cui siamo abituati, dove spesso non è così protagonista comica una donna. E poi il resto è stato una sorta di alchimia magica in cui io speravo che sulla carta poteva funzionare, e poi in realtà ha funzionato anche meglio di quello che mi aspettassi, cioè loro due quando parlano insieme, sia a livello di toni, sia a livello di espressività, sia a livello di movenze fisiche, sono proprio complementari e a quel punto tutto diventa molto molto cinematografico, molto divertente. Senti, c'era anche la voglia di ragionare attorno a questo bambino con due mamme, sostanzialmente, visto che è un tema comunque di forte attualità? Ma infatti quando noi siamo partiti col progetto del film ovviamente non era ancora così tanto l'attualità e di dibattito quasi quotidiano sul politico e sociale. Sicuramente si vede che sono quei temi che a un certo punto sono nell'aria, sono nella società, come diceva giustamente anche Margherita, spesso la società cambia prima delle leggi, quindi raccontare questa famiglia che si creava attorno a un affetto, famiglia né biologica né legale, però famiglia vera e probabilmente anche più forte di tante famiglie semidisfacimento, era una cosa interessante, cioè arrivarci col racconto, secondo me, è stato veramente un valore aggiunto del film. Luca, Nemiche per la pelle sembra un film fatto apposta per essere esportato, cioè quando si esportavano i film questa era una commedia di quelle che sono talmente universali, e lo stiamo vedendo anche recentemente quanto cinema francese arriva da noi, per esempio, perché ha un suo potenziale universale. Purtroppo negli ultimi anni più che esportare si fanno dei remake, cioè si vendono dei diritti e qualcuno ci rifà un film. Ci hai fatto una pensata che potrebbe succedere una cosa del genere? Beh, quello ovviamente mi farebbe molto contento. Io devo dire, era 5 anni che non facevo un film, perché mi arrivavano copioni, devo dire che non mi affascinavano, spesso addirittura dei remake o delle cose insomma già straviste. Anch'io da italiano mi viene da dire, noi abbiamo raccontato le storie più belle del mondo a tutto il mondo, da Pinocchio alla Bohème, alla Traviata, insomma, dover copiare le storie dagli altri mi sembra proprio un limite per noi italiani. Luca, grazie per essere stato con noi. Nemiche per la pelle, Claudia Gerini, Margherita Bui nei cinema italiani. Grazie. E Luca Lucini allora ci ha raccontato Nemiche per la pelle. Noi a questo punto siamo arrivati al nostro primo momento di gioco insieme, di film misterioso da indovinare. Ascoltate questa traccia. Io l'ho osservata. E lei ha osservato me. Mi creda. La partita volge al termine. La partita volge al termine. Questa parola partita fa parte un po' anche del concetto, del titolo di questo film. Diteci di che film si tratta con il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi faremo ascoltare la prossima settimana. Andiamo avanti con un altro film che arriva nelle nostre sale, si intitola Le Souvenir. E per tua nonna? Cosa è successo? È scomparsa. Ma com'è possibile che se ne sia andata così? Non li sorvegliate? Ma questa non è mica una prigione. Prima domanda, sua madre è maggiorenne? Cazzo, ho ricevuto una cartolina da mia nonna. Bene, ci devi andare, devi fare un'indagine. Non ne posso più che gli altri decidano per me, capisci? Ha carattere tua madre. Stai scrivendo un libro? Sì. E di cosa parla? Dimmi. Parla del passato. Le Souvenir, i ricordi, nella nostra clip, un film francese di Jean-Paul Rouve con Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi. È un film di grande dolcezza, di grande cuore, cioè quello della storia di un ragazzo di 23 anni che sogna di innamorarsi, di scrivere un libro, ma soprattutto di recuperare sua nonna, perché sua nonna a un certo punto è sparita e ha lasciato praticamente come suo segnale una cartolina. Recuperiamo Boris Sollazzo. Boris, questo Le Souvenir, che è un adattamento di un romanzo, è un film di buoni sentimenti che si trasforma in una sorta di road movie a spasso per la Francia, ma che ci racconta soprattutto l'incontro sempre più essenziale, soprattutto per i giovani, fra due generazioni. Beh, un gioiellino. Voi pensate solo se Nebraska possa essere fatto da un francese e invece di un figlio e di un padre arcigno vi trovate una nonna e un nipote artista, ecco. Se fate questo sforzo e immaginate la potenzialità di un on the road che in realtà diventa sostanzialmente un riprendere qualcuno che vuole vivere la propria vita, soprattutto la parte finale della propria vita, come intende volerlo fare, a dispetto di tutto e di tutti, e dall'altra parte qualcuno che forse non ha mai cominciato a vivere realmente, che attraverso questa fuga e questo rincorrere, questo affetto, riesce a trovare se stesso, probabilmente capirete che siamo di fronte alla storia più raccontata del mondo e allo stesso tempo però anche la più potente del mondo. Le souvenir non ha nulla, lo dice fin dal titolo, non ha nulla di nuovo, non ha nulla di innovativo, sono ricordi, sono uno schema del passato che ritorna e ritorna potentemente. Allora perché vederlo? Bisogna vederlo perché quando si esce dalle souvenir il cuore batte, e probabilmente batte un po' più forte, il sangue si riscalda, hai dentro una serie di buoni sentimenti, no? Si chiamano feel good movie, che non sono però qualcosa di posticcio, ma sono qualcosa che hanno fatto fare un viaggio anche a te, cioè appresso alla nonna, questa ancora di meravigliosa, appresso alla nonna, appresso a quest'uomo, giovane uomo che vuole trovare Romain, vuole trovare se stesso come scrittore, come persona, hai viaggiato anche tu, e lo hai fatto perché il regista è bravo, il regista è molto bravo a mettere in scena una storia classica, perché gli attori, come li hai ricordati, Blanc, Lobby, Spinosi, sono eccezionali, li avevano dimenticati in Francia, avevano una straordinaria professionalità, lui se li è andati a ripescare tutti, Rouve, e li ha rimessi laddove la loro professionalità meritava, e poi è scritto bene, è scritto meravigliosamente, riesce sempre a rifuggire la retorica, proprio come riusciva ad essere Nebraska, senza però essere duro come era Nebraska, se vogliamo, senza voler essere cinico, ma con tanti buoni sentimenti. Io devo dire, non so se sto invecchiando oppure se sono diventato più buono, in ogni caso Le Souvenir a me ha tirato fuori qualche lacrima, ma soprattutto mi ha fatto sentire abbracciato. E vivere così in 3D, dove la terza dimensione è l'amore, i sentimenti, il cinema, è la cosa più bella che possa succedere. Stai decisamente invecchiando, perfetto. Allora prendiamo atto di questa cosa. No, sto scherzando, ovviamente. Invece è un film assolutamente toccante, e senza essere melenso, che è sempre un lavoretto non facilissimo da fare. Allora, linea alla regia, fra poco torniamo insieme. E a proposito di film, come dire, non dico melensi, ma insomma di buoni sentimenti, ci aspetta Il Libro della Giungla. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, Il Libro della Giungla. Casa Disney continua il suo lavoro sui suoi film, sui suoi classici di animazione, per portarli in carne e ossa, in live action. L'ultimo della serie era stato, come ricorderete, Cenerentola. Adesso tocca appunto al film che raccontava in animazione negli anni passati, ricorderete, Mowgli, la Baghera, la Tigre Shere Khan, li raccontava animati. Adesso li vediamo in live action con un film diretto da Jon Favreau. Se non impari a correre con il branco, uno di questi giorni finirà in pasto a qualcuno. Povero dolce cucciolo, che cosa ci fai nella giungla? Sei un cucciolo d'uomo che vuole vivere nella giungla. E tu come lo sai? Ragazzo, io ho orecchie, le mie orecchie hanno orecchie, solo io posso proteggerti. Mowgli, mettiamoci in cammino. Ma Baloo deve prepararsi al letargo, ha bisogno di aiuto. Nella giungla gli orsi non vanno in letargo. Non in pieno letargo, ma io dormo, e tanto. E allora, con Boris Sollazzo, sempre per chiacchierare di questo film. Boris, qui parlano gli animali, insomma. Allora, finché lo fai con un film animato, ci sta tutto, no? Qui la sospensione della credulità deve essere, come dire, abbastanza forte per sentir parlare tigri, pantere e orsi. Com'è andata? Io direi che è andata bene alla fine. Adesso non so se dopo essere invecchiato sono anche regredito, probabilmente anche quello, però credo che sia andato bene. Un po' dipende dal fatto che probabilmente tutti noi che abbiamo nell'immaginario sia il libro di Kipling sia soprattutto il film d'animazione di Walt Disney di 50 anni fa, che è poi il testamento artistico e morale di Disney, dove porta al momento, al suo momento più alto, la necessità di crescere, la voglia di rimanere bambini, che c'era anche in Peter Pan. Tutti abbiamo pensato Favreau a fare il libro della giungla sarà un disastro, quindi trovandoci di fronte a un prodotto molto più che dignitoso, già probabilmente il nostro sorriso si allarga molto di più. Detto questo, però, Favreau fa qualcosa in più di un prodotto dignitoso. Intanto è vero che c'è molto live action, ma si aiuta molto con gli effetti speciali, e questo in qualche modo lo porta a un'estetica che non deve essere del tutto credibile, ma deve essere iperrealistica. E quell'iperrealismo ti aiuta anche a sentir parlare gli animali, che devo dire vengono doppiati bene sia in lingua originale sia, e faccio i miei migliori applausi anche dai talent italiani, c'è anche uno straordinario Tony Servillo che ormai può veramente dire di saper fare tutto, perché insomma questo non glielo sospettavo. Il segreto di Favreau però è uno solo: non mettersi in competizione con il film d'animazione, con la dolcezza del film d'animazione, anche un certo modo melenso di raccontare, anche perché quel bambino così passivo che c'era in quel film d'animazione non sarebbe più tanto credibile, ma mettersi in competizione con Kipling, cioè raccontare il libro della giungla come lo chiamava Kipling, cioè una sfida dell'uomo con se stesso e con la natura, la forza di raccontare l'animo da una parte bestiale e viscerale e dall'altro anche evolutivo, darwinista, di questo bambino che sostanzialmente è l'anello mancante tra la bestia e l'essere umano e che deve crescere in tutti i sensi. E così Baloo e Bagheera non sono più delle balie, ma sono invece dei compagni di viaggio. Ci si trova in mezzo a qualcosa che assomiglia forse più al Mago di Oz che al Libro della Giungla, ma abbiamo il gusto del nuovo, cioè viviamo il Libro della Giungla in maniera diversa e anche la capacità di un regista di non farsi schiacciare dai modelli precedenti, forse perché non ha chissà quale passato alle proprie spalle a cui dover essere fedele, e alla fine ci si diverte. È un film che piacerà secondo me anche agli adulti, e vi consiglio di stare molto attenti al finale, non tanto invece alle canzoni riprese dal precedente lungometraggio animato, perché quelle sono l'unica caduta di stile, ma al finale, perché il finale davvero, sia se siete fan di Kipling sia se siete fan di Walt Disney, quello non ve lo potete aspettare, e quello è il tocco secondo me di Favreau, quindi alla fine io lo promuovo, devo essere sincero. Promosso allora il Libro della Giungla, che sta già cominciando insomma molto bene nelle sale cinematografiche italiane. Noi siamo arrivati invece alla seconda clip del film misterioso di oggi. Abbiamo un solo nemico che corrompe ogni persona e ogni cosa, che ci mette gli uni contro gli altri. Smettiamo di uccidere per lui! E allora si deve smettere di uccidere, c'è una eroina che parla dal pulpito. Di che film si tratta? Mi raccomando, il titolo completo di questo film con il vostro indirizzo per provare a vincere una delle copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. C'è ancora il tempo per una proposta dal grande schermo, si intitola Senza lasciare traccia. Prima, quando hai detto che non ti dicono la verità, vuol dire che non sai quanto tempo ti resta? La sento ancora qui dentro. La malattia. Che cresce. Come un intruso. Uno che potrebbe entrarti in casa. Da un momento all'altro. E che potrebbe infilarti una mano nel petto. E strapparti gli organi. Un'altra proposta italiana, Senza lasciare traccia, film di Gian Claudio Cappai con Michele Riondino e Valentina Cervi nei ruoli dei protagonisti. Una storia dura, quella di un uomo che, appunto, come avete sentito anche dalla clip, vive una malattia che lo consuma lentamente e ha la svolta, la possibilità di svoltare nel momento in cui ritorna nel luogo dove tutto è cominciato, una fornace abbandonata. C'è la riflessione sull'uomo e sull'ambiente circostante, Boris, ma c'è anche, ed è il motivo per cui abbiamo scelto fra 15 film di parlare di questo film, c'è anche una mano di regia rara da vedere in Italia. Devo dire di sì, era rischiosissimo questo film, perché trattare la malattia, in particolare in Italia, anche con il tipo di morale che la attorna, è complicatissimo, perché si passa dal patologico al patetico senza poi davvero raccontarla bene. E invece Cappai è davvero bravo, perché prende quest'uomo che noi recuperiamo in un attacco all'inizio del film, che viene consumato da un nemico che vive la sua malattia, sì, con l'ingiustizia che deve essere vissuto da un corpo così giovane, che viene attaccato in maniera così crudele da qualcosa di così pesante, però la vive anche in una maniera sostanzialmente serena. Cappai ci dice che quest'uomo ha dentro qualcosa che fa ancora più male di quel cancro, che è qualcosa che probabilmente gli ha mangiato dentro da anni e che in qualche modo deve risolvere. Sembra quasi una trama all'americana, sembra quasi una trama che di solito si dà un grande divo statunitense per la vendetta finale, ma qui c'è molto altro. Lui deve risolvere qualcosa, utilizza tra virgolette la moglie, un suo viaggio per farlo, e che cosa dire, è bravissimo Cappai a raccontare questa storia a suo modo minimale ma anche universale. Sono bravissimi gli attori, perché Riondino, lo sappiamo, è uno dei migliori interpreti del cinema italiano e non solo. Elena Radonicic, che ha questa asperità anche nei connotati che rende ancora più efficace. C'è Vitaliano Trevisan che io adoro, Valentina Cervi. È davvero un gioco di squadra in cui, come dici tu, quello che ti colpisce di più è che in un film che pure non ha chissà quale budget, che pure non ha ha molte trappole disseminate, è molto buono in scrittura, è molto secco, è molto forte, anche molto fluido, e ha un occhio di regia estremamente lucido, estremamente interessante. Quindi giustamente tra 15 film scegliere questo ha un significato, perché è un cinema italiano che secondo me sta sempre più ritrovando una visione molto particolare a seconda dei registi che ci stanno. Quindi i miei complimenti a Cappai, perché davvero era un film difficile che lui ha fatto sembrare facile. Forse questo è il maggiore complimento che gli si potesse fare. Assolutamente la maggiore quote che si può mettere su una locandina. Boris, grazie e appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E noi andiamo di nuovo a sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco si torna, si parla di grande musical, come sempre, con un passaggio cinematografico recente alle spalle. Jersey Boys è stato un film di Clint Eastwood, diventa un musical che ha esordito proprio in questi giorni a Milano. Fra poco. La rosa purpurea. Le melodie del musical Jersey Boys, che dopo essere stato un musical di grande successo a Broadway a Londra ed essere diventato un film con la firma niente meno che di Clint Eastwood, arriva in Italia con la regia di Claudio Insegno per raccontare ancora una volta la storia infinita di questo gruppo vocale dei Four Seasons, che erano capitanati da un signore che si chiamava Frankie Valli e che forse molti amici del cinema ricordano per la canzone, la title track di Grease, ma che ha firmato melodie che, una volta visto il film e visto lo spettacolo e il musical, non dimenticherete e vi direte: ah, ma davvero hanno fatto tutta questa roba i Four Seasons? Ebbene sì, la risposta è proprio quella, e Claudio Insegno è con noi per raccontarci questo spettacolo. Ciao Claudio, benvenuto alla Rosa Purpurea. Ciao, grazie. Però dopo Clint Eastwood, nominare Claudio Insegno è un po' una specie di bestemmia. Guardi, no, dai, diciamo. non dire così. E del resto, Clint Eastwood si è spinto su un territorio che non pensavamo fosse il suo. Però lui è grande in tutto, quindi può fare qualsiasi cosa, anche perché il film è veramente bello, ma il musical è ancora più bello. Io l'originale l'ho visto e me ne sono innamorato, e il produttore Lorenzo Vitali ha avuto il coraggio di portarlo in Italia. E come dicevi tu giustamente, la cosa bella è che quando il pubblico sente, ascolta le canzoni, impazzisce, perché riconosce talmente tante canzoni, dice: ma non è possibile, ma tutte loro erano queste canzoni. Loro hanno veramente determinato un bel periodo di pop music e non solo. E poi con una cifra vocale davvero straordinaria, quella di Frankie Valli, che sono quelle voci che non puoi praticamente imitare. Cioè, ecco, ti chiedo già come hai lavorato a identificare in Italia l'attore cantante che potesse avere quel timbro lì. Ma tu lo sai che la cosa buffa è che è molto semplice, è stato non trovare lui, perché lui era un po' introvabile, ma trovare tutti gli attori, perché erano tutti italoamericani, quindi erano tutti italiani in qualche maniera. Quindi trovarli, siamo stati più fortunati noi degli americani, secondo me, perché ci avviciniamo molto di più noi a quelli originali che quelli originali, perché sono italiani, hanno un aspetto italiano, hanno un modo di parlare italiano, quindi è stato veramente quasi semplice in un certo senso. Ho visto 1800 persone e le ho trovati anche su una capacità artistica che va dalla recitazione al canto in maniera abbastanza eccellente, perché altrimenti non potevano né recitare né cantare, perché è talmente difficile vocalmente ed è talmente difficile da interpretare che hanno dovuto fare i salti mortali, veramente. Senti Claudio, il musical originale era definito, adesso non so se ha torto o ragione, era definito un po' un jukebox musical, cioè uno spettacolo che si reggeva molto sulle canzoni e magari un po' meno sulla drammaturgia. Clint Eastwood nel film ci ha aggiunto, chiaramente avendo quegli spazi che ti permette solo il cinema, gli ha aggiunto questa terza dimensione. Tu quanto hai portato in teatro dell'uno e dell'altro? Cioè, ti sei rifatto soprattutto o solamente allo spettacolo teatrale, o c'è qualcosina anche del film? No, guarda, io ho fatto una specie di mix tra quello del film, quello del teatro e qualcosa di mio, nel senso che io odio quando vedo dei personaggi che entrano e non parlano e dicono solo poche cose, nel senso che non vivono più di tanto, no? Però nel teatro, soprattutto quello americano, Broadway, questo qua, lo tendono moltissimo ad avere le comparse quasi, e a me sinceramente la comparsa non mi fa gioco, quindi in questo caso sono subentrato io, la mia parte diciamo artistica, comica, divertente, così. Infatti alcuni personaggi che prima avevano niente hanno qualcosa in più, e l'attore almeno è anche un pochettino più gratificato in un certo senso. E poi naturalmente ho preso buone battute del film e buonissime battute dello spettacolo, quindi è una specie di mix che naturalmente ha funzionato tantissimo, perché era esplosivo lo spettacolo, esplosivo il film, e ci ho messo qualcosa molto divertente, perché lo spettacolo è comico, la prima parte è molto divertente, poi naturalmente parlando della vita di un personaggio così importante c'è anche del drammatico, c'è il rapporto con la moglie, c'è il rapporto con la figlia, ma non è quel dramma che naturalmente poi chiude solamente con la lacrima, poi ti viene voglia di stare in piedi e ballare insieme. Assolutamente, sono canzoni che ti fanno muovere i piedi, sembra che sia un filo tantissimo, che ti tira praticamente, tantissimo. Ricordiamo questi titoli straordinari, Sherry, Big Girls Don't Cry, Can't Take My Eyes Off You, che è stata poi versione disco, colonna sonora famosissima del Cacciatore. Ti chiedo, queste canzoni, dacci una gioia, ovviamente le cantate in originale. Sì, tutte in originale, questa è la gioia anche mia, non ve la do solo a voi perché non sopporto le traduzioni in italiano, purtroppo, ma sai, essendo così famosa non è giusto, sarebbe snaturarla troppo. Poi non raccontano la storia dello spettacolo, quindi voglio dire, non c'era bisogno di tradurla, no? In questo caso, quindi perfetto, capitava proprio bene, e naturalmente abbiamo preferito lasciarla in originale. Poi abbiamo un'orchestra meravigliosa, non potevamo suonarle così bene e cantarle in italiano, avremmo fatto una cosa più che la storia dei Frankie Valli, forse sarebbe diventata la storia dei Pooh, insomma, non mi sembrava il caso. Allora ci aspettiamo con Claudio Insegno un musical sulla storia dei Pooh, e vi ricordo Jersey Boys fino al 15 maggio, quindi come a dire, ce n'è davvero di occasioni per vederlo. Grazie Claudio per essere stato con noi. Lo spettacolo è molto bello, quindi sbrigatevi a venire, a correre gente, grazie a voi. E allora siamo a questo punto, dopo aver parlato del grande musical, alla zona del nostro programma che vi racconta tutto il cinema da vedere in casa, e lo facciamo come sempre cominciando con il risolvere il quiz della scorsa settimana. Ho vissuto abbastanza a lungo da vedere gli stessi occhi in persone diverse. Io vedo i tuoi occhi. Conosco i tuoi occhi. E avevamo giocato con Star Wars 7, Il risveglio della forza, il film che ha caratterizzato fortemente la parte iniziale di questa stagione e che ha riattivato la mai sopita, diciamo, fanship di questo marchio che è Star Wars, che sta rivivendo anche fra i bambini più piccoli momenti di grandissima gloria. Allora, con Disney abbiamo giocato con questo film. I più veloci ad indovinare che riceveranno la copia in Blu-ray sono Luca Tonello di Cadoneghe, spero di averlo pronunciato bene, provincia di Padova, e Roberto Lazzarone di Colle Salvetti, provincia di Livorno. Per loro la bellissima, bellissima edizione in Blu-ray di Star Wars Episodio 7, che ci facciamo raccontare anche in tutti i suoi meravigliosi contenuti speciali dagli amici di Film TV, da Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, l'evento cinematografico dello scorso anno, la rinascita della forza, della saga fondativa del cinema contemporaneo e uno dei massimi miti popolari degli ultimi 40 anni, arriva finalmente in Blu-ray e DVD. L'edizione Blu-ray ha due dischi veramente completissima sul versante extra e tecnicamente eccezionale. A livello di video, la resa cromatica, lo stacco netto tra i colori, il dettaglio elevato fanno veramente un prodotto assolutamente perfetto, e lo stesso vale per l'audio. Vale la pena soffermarsi un po' sugli extra, nel senso che sono veramente una pacchia per i fan. Si parte con I segreti del risveglio della forza, un viaggio cinematico, ovvero filmati interviste che raccontano la storia completa del film e della sua realizzazione. Poi c'è Il risveglio della storia, la lettura a tavolino, in cui vecchi e nuovi protagonisti riflettono sulla giornata in cui si incontrarono per la prima volta per leggere la sceneggiatura del film. Ci sono speciali sulla costruzione di BB-8 e sulla creazione delle creature in CGI. C'è uno speciale di approfondimento sull'epica lotta finale a colpi di spada laser, molte scene eliminate, e poi un approfondimento con John Williams sulla colonna sonora. Forse l'unico piccolo neo è che nel Blu-ray manca un commento audio del regista J.J. Abrams. E questo per quel che concerne l'edizione, che era il nostro game della scorsa settimana, in un video Blu-ray, segnatamente Blu-ray, di Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza. Andiamo a dare un'occhiata veloce a cosa ci propongono i palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti della prossima settimana, cominciando da Sperduti a Manhattan di Sam Weisman, che Paramount Channel programma alle 17 di martedì 19 aprile. Sì, sono molto contento che tu abbia scelto tra le proposte questo Sperduti a Manhattan, che è veramente un gioiellino di commedia, un rifacimento di un classico come Un provinciale a New York con Jack Lemmon e Sandy Dennis su un campione di Neil Simon, in cui i protagonisti devono adeguare la cultura, i pregiudizi e gli affetti al ritorno della grande mela. Qui ci sono il genio comico di Steve Martin, che è un commediante mai troppo osannato, capace sempre di essere surreale, popolare e Goldie Hawn. Si respira l'aria del cinema che fu, con battute che sono sì vecchie ma sono ancora irresistibili. In più c'era il Monty Python John Cleese in un ruolo veramente esilarante. E lo stesso giorno si concentra l'altra nostra proposta, una calibro 20 per lo specialista di Michael Cimino, su Rai Movie alle 21.15, sempre di martedì 19. Sì, ogni volta che passa in TV lo segnaliamo, non riusciamo a non farlo, ma prometto che d'ora in poi ci impegneremo. Cimino aveva 30 anni quando ha deciso di passare dietro la macchina da presa per confrontarsi con tanti dei punti di riferimento di allora, che erano Don Siegel, Sam Peckinpah, Friedkin, e questa calibro 20 si inserisce nel discorso del cinema americano sulle poetiche della violenza, concentrandosi sul disincanto di chi si confronta in maniera molto critica anche con l'eredità narrativa americana. Tanti temi letterari, l'individualismo, road movie, l'interpretazione della libertà, ma sono tutti messi in scena nel rapporto che è sempre intimo ed epico tra i personaggi e lo spazio, che è quello che fa di Cimino uno dei più grandi registi della storia del cinema americano. E con questo è tutto, grazie a Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, il tempo di salutarci, darvi appuntamento a sabato alle 18. Per chi dovesse passare dal Salone del Mobile, saremo lì proprio domenica, e quindi veniteci a trovare, perché facciamo un po' di ragionamenti sul cinema e sulla cucina, e quindi insomma una puntata a suo modo imperdibile, assolutamente originale, che poi troverete sul nostro sito. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.